vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 novembre, il sole in regione è sorto alle 7.16 e tramonterà alle 16.30. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Secondo il botanico Stefano Mancuso, se vogliamo salvare la terra dal riscaldamento globale, dobbiamo piantare nel giro di pochi anni qualche decina di miliardi di alberi. Coldiretti è già su questa strada con un progetto di piantumazione di 50 milioni di piante. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare alla rubrica del biologico, dove, rimanendo in tema, Cristina Micheloni ci parla delle iniziative contro la deforestazione che si stanno muovendo a livello di Unione Europea. A seguire l'utilizzo dell'anidride solforosa in cantina, la gestione di anno in anno delle sementi per l'orto, una tesi discussa all'Università di Udine che mette a confronto birrifici artigianali e industriali e la seconda puntata dedicata alla storia del tiramisù, quello di Tolmezzo. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Milioni di alberi, li vuol piantare Coldiretti anche del Friuli Venezia Giulia, un'azione volta a combattere i cambiamenti climatici, una risposta a quanto è stato detto anche a Glasgow che per salvarci di alberi ne dobbiamo piantare qualche miliardo. Su questa proposta ne parliamo oggi con Cesare Magalini, che è il direttore di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. A quando il primo albero? Già nella settimana scorsa noi come Coldiretti abbiamo fatto un summit in quel di Giara in cui abbiamo messo insieme no, le maggiori ditte florovivaistiche italiane. Io credo che questa è un'opportunità, innanzitutto per il settore vivaistico, ma anche un'opportunità per agganciare il futuro su questa cosa. Questo obiettivo che già è stato dato, no, che è concreto, che lo possa portare a un vivere meglio nelle città, nelle campagne. Io dico questo, mi pare in Italia, se vado errato, abbiamo a disposizione mediamente 33 metri quadrati di verde, direi che è poco nel nostro paese, parlo delle città, quindi io credo che si possa veramente mettere giù, e qua c'è un'opportunità data dal PNR, un piano in cui si vada veramente a piantumare con essenze quelle che servono per le città, insomma ci sono degli studi, sono delle applicazioni, basta copiare. Abbiamo esperienze, lo dico anche per decidere queste cose insieme con le amministrazioni. E portare del verde nelle città vuol dire anche spazi per stare assieme e per anche vivere meglio la vita. Mi pare che l'Italia abbia purtroppo una maglia nera a livello europeo in fatto di morti per biossido, quindi qualche passo in più credo che tutti insieme noi dobbiamo farlo. Noi come comparto agricolo, quando arrivo in Friuli no, vedo ci sono già delle aree piantumate, insomma credo si possa andare avanti. È un'occasione di lavoro per noi ma anche per i cittadini. Coldiretti è sempre stata attenta ai temi ambientali, storica la sua battaglia contro l'OGM, però c'è ancora molto da fare in agricoltura. Io ho visto quest'anno anche il clima in Friuli Venezia Giulia, è tutto correlato, io dico anche ai mutamenti climatici, no? So che Friuli è una regione per eccellenza in fatto di piovosità, però mi pare che negli ultimi mesi no, è mancata la pioggia, quindi io credo che abbiamo tutti la responsabilità di mettere a terra progetti per una gestione oculata anche dell'acqua. Noi come comparto agricolo, ma insomma il PNR dà delle opportunità importanti per i consorzi di bonifica, per gestire l'acqua magari in quei momenti in cui ce n'è l'abbondanza, quindi con invasi, e poi darla in quei periodi, in quei momenti in cui magari serve e ce n'è poca per carenza di precipitazioni. Non solo acqua, ma l'utilizzo, per esempio, dei fitofarmaci. Ma su questo negli ultimi anni abbiamo fatto anche, io direi, passi importanti anche da gigante, perché nella strategia dell'Agenda 2030 c'è già una riduzione consistente in fitofarmaci, siamo anche in concimi, sta a noi come aziende, è già un percorso iniziale. Sta a noi arrivare al 2030, che è domani purtroppo, in maniera intelligente, ma già abbiamo attrezzature, macchinari e anche test per dire c'è già una riduzione. Va fatta anche con tecnologie nuove che si possono fare e comprare. È evidente che non è come girare un contatore dalla mattina alla sera, ma va fatto un accompagnamento, e questo credo sia anche una nostra richiesta che facciamo anche allo Stato. Secondo lei, nella mentalità degli agricoltori sta entrando, è già entrata questa sensibilità? Assolutamente sì, anche perché se guardiamo un attimo anche quando Bruxelles discute la PAC e fissa gli obiettivi, prima c'è sempre, diciamo, una consultazione che è ampia, articolata e riguarda anche i consumatori europei. Oggi i consumatori hanno deciso che insomma sostenibilità, un'attenzione particolare all'ambiente, credo che il nostro agricoltura, il nostro comparto abbia tutte le carte in regola per fare bella figura. Dopo la conferenza di Glasgow, che non ha destato troppi entusiasmi, qualcosa si muove nel campo delle azioni di contrasto alla deforestazione. Ci dice tutto Cristina Micheloni. Ancora con l'amaro in bocca per il poco di fatto di COP26, leggiamo con piacevole stupore che la Commissione europea, per mano del suo vicepresidente e commissario all'ambiente Frans Timmermans, quello del Green Deal per capirci, tenti almeno di battere un colpo. Infatti, pochi giorni fa è stata pubblicata una proposta di regolamento che, qualora approvata, impedirebbe l'uso di commodities, legacy, soia, carne bovina, olio di palma, caffè e cacao, provenienti da terre deforestate dopo il 2020, sia nei prodotti agroalimentari europei che in quelli che dall'Unione Europea vengono poi esportati verso il resto del mondo sotto forma di formaggi, insaccati e salumi, dolci e biscotti, ma anche banalmente, ma impattantemente in termini di quantità, sotto forma di mangimi o loro costituenti, come la farina di soia. In buona sostanza si andrebbe a costruire un sistema di verifica tramite immagini satellitari. Non dimentichiamo che la UE ha investito non poco nei sistemi Galileo e Copernicus, che possono tornar buoni anche a questo scopo, ed una tracciabilità per lotti che consentirebbe di identificare se la soia, il caffè o altra commodity deriva da appezzamenti dove prima c'era foresta, prima inteso come 31-12-2020, cosa che i sistemi satellitari possono verificare in modo semplice tramite confronto di immagini dei medesimi in tempi diversi. Il tutto sembra futuribile, ma è assolutamente possibile, quasi semplice, basta volerlo. Il buon Timmermans ha anche allocato all'operazione la non marginale cifra di 16 miliardi e mezzo per i primi 5 anni di attivazione e gestione del sistema, che auspica possa andare a regime già dal 2023 e prevede pure un sistema di verifica semplificato per le piccole e medie imprese rispetto a quelle più grandi. Non è una delle soluzioni semplici e immediatamente cantierabili che preferiremmo, tipo l'iniziativa del 4 per 1000 che ai tempi di Parigi propose l'allora ministro francese Le Foll, che in buona sostanza disse: facciamo in modo di aumentare del 4 per 1000 la sostanza organica in tutti i suoli coltivati europei e avremo una bella serie di vantaggi non solo per la CO2 stoccata ma anche per la biodiversità, la regimentazione e conservazione dell'acqua, la fertilità e quindi la capacità di fare un'agricoltura sana. Per rendere operativa la proposta Le Foll sarebbe bastato prendere delle decisioni serie sulla PAC, ma ciò non è quello che hanno consapevolmente scelto gli Stati membri, cioè i singoli paesi dell'Unione, Italia compresa, stesso ostruzionismo che è in corso sul Green Deal. Ora vediamo se, come troppo spesso accade, la Commissione prova a fare il necessario salto, ma è costretta ad atterrare pochi centimetri più in là a causa delle zavorre imposte dai paesi, che obbediscono alle loro consorterie interne e trasversali. Di sicuro ci sarà qualcuno che griderà alla rovina del sistema agroalimentare europeo ed italiano, quello speciale di alta qualità, autentico, territoriale, che però evidentemente ha almeno un paio di dita sulla leva dell'acceleratore della motosega. L'anidride solforosa, a quanto pare, è utilizzata da secoli in cantina, ma ci vogliono alcune precauzioni, come ci spiega il professor Roberto Zironi. Nel precedente incontro abbiamo visto come possa essere utile alla produzione del vino una sostanza chiamata anidride solforosa. Visto che questa sostanza tornerà nel corso anche dei prossimi interventi, cerchiamo di conoscerla maggiormente. Questa sostanza è stata utilizzata nella produzione del vino sin dai tempi più antichi. Ne parlo Omero e poi Plinio, ma fondamentalmente è dal 1487 che ne è documentata la reale applicazione. È un decreto reale in Germania che permette di aggiungere zolfo al vino, stabilendo in quali condizioni questa poteva essere utilizzata. Si utilizzava una miscela di zolfo che veniva bruciata nella botte prima di riempirla di vino. In questo modo i vini tedeschi, leggeri per la bassa gradazione alcolica, si mantenevano maggiormente stabili nel tempo. E quindi questa tecnica messa a punto in Germania, con un certo ritardo, ma è inevitabile come le innovazioni possono poi essere diffuse, nei secoli successivi è applicata anche in Francia ed in Italia. Nonostante i notevoli effetti positivi, è una sostanza che va usata con estrema cautela, perché presenta anche degli effetti negativi per la salute umana. L'OMS ne ha definito infatti la dose massima giornaliera e anche la dose letale. Per tale motivo la Comunità Europea ha fissato nei vini al commercio un contenuto massimo di tale additivo e questo contenuto è ridotto ulteriormente nei vini biologici. Perché i solfiti presentano delle problematiche da un punto di vista alimentare? Perché sono delle sostanze che possono presentare un effetto allergene, specialmente in organismi sensibili, ad esempio nei soggetti asmatici. Inoltre, l'effetto detossificante che il nostro organismo ha nei confronti di questa sostanza comporta che una certa quantità di ossigeno venga sequestrata e quindi possa comparire negli organismi sensibili il cosiddetto cerchio alla testa. Pertanto, i produttori di vino sono obbligati a segnare sulle bottiglie di vino stesso il contenuto, la presenza di questi solfiti. I solfiti sono utilizzati anche in altre industrie alimentari, per cui non è soltanto il vino l'apporto principale di solfiti nella dieta, e fanno parte anche dell'inquinamento ambientale, per cui spesso la dose minima consentita viene raggiunta anche soltanto attraverso la respirazione dell'aria che ci circonda. Pertanto, da un punto di vista enologico, gli obiettivi per il futuro sono quelli di ridurne fortemente l'utilizzazione, non potendo ancora oggi pensare ad una sua completa eliminazione, con tecnologie enologiche alternative. Come gestire da un anno all'altro i semi per il vostro orto? Sara Bosco vi dà alcuni consigli e trucchetti pratici. In questo intervento vorrei soffermare l'attenzione sui semi e sulla loro vita. La quantità di colture che vengono piantate spesso nei nostri orti non corrispondono a quelle presenti nelle buste o nei contenitori che vengono comprati e spesso si ha appunto un avanzo a fine stagione. Questi semi avanzati è importante vengano conservati in un luogo asciutto e fresco, in quanto le alte temperature ne riducono la loro forza germinativa. Queste accortezze sono valide anche nel caso in cui si vogliono conservare dei semi provenienti dalle stesse piante coltivate che hanno delle buone performance. In questo caso però è importante che questi semi arrivino alla completa maturità, altrimenti rischiano di ammuffire poi. Il seme infatti è costituito esternamente da un tegumento che regola gli scambi di aria e acqua con l'esterno e protegge la parte interna che è molto sensibile. All'avvio della nuova stagione, per verificare se questi semi sono ancora vitali, è importante fare delle piccole prove. Si può prendere un recipiente, si pone sul fondo un pezzo di carta assorbente e lo si bagna con l'acqua. Sopra si mettono i semi da far germinare e si chiude il tutto con una pellicola con dei piccoli fori sulla superficie. E si pone questo recipiente in un luogo che mantenga circa la temperatura intorno ai 20 gradi. Trascorsi un paio di giorni si può osservare quali semi hanno emesso il germoglio e trascorsi dai 10 ai 20 giorni totali, in funzione delle stesse colture, si vanno a contare quanti germogli sono nati. In base a questo piccolo trucco si può vedere quanti semi vanno seminati per poter ottenere un numero adeguato di piantine nel nostro orto. Infine, un altro piccolo accorgimento, che è ancora più semplice, è porre questi semi all'interno di una bacinella piena d'acqua e lasciarli in ammollo per circa 24 ore. Quelli che cadranno nel fondo saranno quelli di migliore qualità, mentre quelli che galleggeranno risulteranno essere troppo leggeri in quanto il tegumento è troppo secco e non permette gli scambi con l'esterno. Questi sono dei semplici trucchi per poter riutilizzare i semi dell'anno precedente con una maggior probabilità di raccolto. Valutazione dei consumi idrici ed energetici di una microbirreria artigianale. Il titolo della tesi di Enrico Garlatti Costa. Abbiamo cercato di dimostrare come effettivamente i consumi, sia idrici che energetici, di un birrificio artigianale siano effettivamente più elevati rispetto all'industria, e questo è dovuto principalmente al fatto che in un birrificio artigianale non ci sono tutte le risorse che un edificio industriale ha, e quindi anche risparmi dovuti all'economia di scala ecco non sono presenti. Ed è uno dei motivi per cui le birre artigianali costano di più? Questo è sicuramente uno dei motivi, tuttavia dobbiamo pensare anche che comunque un birrificio artigianale produce sicuramente una quantità minore di birra, tuttavia si concentrano più sulla qualità del prodotto. Quali sono gli svantaggi di un microbirrificio? Sicuramente il fatto di non poter utilizzare tecnologie molto avanzate per ridurre i consumi energetici, e questo si vede soprattutto nelle fasi di produzione del mosto e bollitura. Che invece quelli industriali hanno. Esatto, quelli industriali ad esempio possono utilizzare tecnologie come l'ebollizione ad alta pressione o il recupero di energia dal vapore del mosto. Ecco, come ovviare a questi problemi? Esistono delle tecnologie, dei metodi di produzione un po' diversi, diciamo, però comunque semplici, come ad esempio diciamo, il recupero di calore dall'acqua di raffreddamento del mosto prima della fermentazione, oppure la produzione del mosto in high gravity, che è una tecnologia che si basa sulla produzione di un mosto più concentrato del dovuto in maniera da ridurre i consumi di riscaldamento riguardo al mosto. Le tecnologie ci sono, i microbirrifici tanti stanno adottando queste nuove tecnologie? Sì, diciamo, queste tecnologie fortunatamente sono molto semplici, appunto. La maggior parte dei birrifici artigianali, appunto, le ha già adottate. E come mai sono ancora indietro rispetto a un bilancio economico ed energetico? Bisogna considerare che comunque questi metodi comportano una riduzione dei consumi, ma comunque, diciamo, non si arriverà mai a livelli di economia e ottimizzazione di un birrificio industriale, e questo ovviamente si riflette, appunto, come abbiamo già detto, anche sui costi più elevati. E come mai sorgono come funghi i microbirrifici? Può darsi che comunque stia cambiando anche la concezione dei consumatori, i quali richiedono sempre di più un prodotto, diciamo, di qualità più elevata, o comunque legato anche al territorio, che è comunque un valore aggiunto. Oggi con la seconda puntata Roberto Zotter ci porta in un'altra culla del tiramisù, Tolmezzo. Abbiamo visto che il tiramisù di Treviso è documentato dal 1981. Anni fa poi, dopo l'intenzione della Regione Veneto di registrare il dolce per una denominazione di origine certificata, si sono levate voci contrarie sia a Tolmezzo sia a Pieris e il tiramisù è tornato alla ribalta. Si è così scoperto che già dai primi anni 50 Norma Pielli del Fabbro preparava nel suo albergo Roma di Tolmezzo il dolce Torino dell'Artusi, in pratica una mattonella a strati di savoiardi e crema al burro. Norma pensò di alleggerire la ricetta sostituendo il burro con il mascarpone e lo chiamò trancia al mascarpone in un menù del 1952. Alcuni sciatori lo soprannominarono tiramisù in friulano per le sue proprietà corroboranti e Norma decise di ribattezzarlo. Lo troviamo così in una comanda del 1959 e in un menù a stampa di una cena dell'Accademia Italiana della Cucina del 1965. Per il tiramisù di Tolmezzo montate tre tuorli e un uovo con 3 etti di zucchero, aggiungete mezzo chilo di mascarpone, amalgamate e aggiungete 3 albumi a neve. Inzuppate con caffè 20 savoiardi, spalmate sopra metà crema, quindi un secondo strato di savoiardi e caffè e l'altra crema. Spolverate di cacao e fate riposare. A Tolmezzo il mascarpone era già conosciuto dagli anni 30 grazie al venditore ambulante di formaggi Giovanni Astori. Il tiramisù venne poi proposto da molti ristoranti carnici, tra cui il Salon di Arta, il Cimenti di Villa Santina, anche Gianni Cosetti, che subentrò ai del Fabbro nella gestione del Roma, lo proponeva nel menù realizzato dal mamma Gabriella con l'aggiunta di una goccia di rum. Quando la polemica sulla paternità del dolce assurse alla cronaca, partecipai a un dibattito televisivo. La mia posizione era che è possibile documentare già dal 1829 dolci a base di mascarpone e uova crude. Ricordo che preparazioni con uova crude non sono contemplate in nessun ricettario rinascimentale e quindi, a mio avviso, bisognava ricercare non chi ha inventato il dolce, ma chi ne ha inventato il nome. A quel punto l'intervistatore collegò telefonicamente un ospite, Luca Zaia, che mi investì dicendo: «Senta ingegnere, mi avete già fregato il prosecco, lei ora vuol fregarmi anche il tiramisù?» A onor del vero non uso il termine fregare, ma qualcosa di ben più forte. Il tiramisù di Tolmezzo contiene quindi tutti gli ingredienti che oggi sono tenuti classici del dolce, ma vedremo che il nome tiramisù era già usato altrove dagli anni 40. Intanto un buon appetito. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, ma con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealiche della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 26,90 e 27,10 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 27,60 e 28 euro. Quello distico si quota tra 22,50 e 25 euro. Il frumento tra 31,30 e 31,80 e la soia tra 59,80 e 60,30. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 8,90 euro e la soia di 19 euro al quintale. Passando ai bovini e al macello è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,70 e 3 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,90 e 2,60. Mercato in movimento nel settore dei vitelli da ristallo, le quotazioni accertano che i blubelga maschi vengono pagati tra 6,6 e 50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,60 e 5 euro, i frisoni tra 1,70 e 2 euro e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenzia ancora un mercato stagnante, i lattonzoli di 30 kg vengono pagati franco partenza a 2,02 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati da 1,47 il chilo. Mercato in ripresa nel settore dei foraggi, il fieno mazzengo di pianura viene quotato da 11 a 11,50 euro il quintale IVA esclusa, l'erba america di prima qualità tra 17 e 17,50, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata di stagione oscilla tra 9 e 9,50 euro il quintale. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. L'autunno di quest'anno continua a presentarsi ancora piuttosto anomalo rispetto al solito, con piogge scarse e condizioni piuttosto miti. Nella seconda decade di novembre, in pianura, le temperature medie sono state di circa 3 gradi più alte rispetto al normale, mentre sulla costa l'anomalia è stata più ridotta, con un grado in più, dovuta al mare con temperature più fresche del solito e alla frequente presenza di bora. La maggior frequenza dei venti provenienti dai quadranti orientali, che hanno soffiato con un'intensità media giornaliera più elevata del normale, considerando il periodo dal 1 ottobre a oggi, è un'altra caratteristica anomala di quest'autunno. Ci sono state molte giornate con prevalenza di bora anche sostenuta, specie sulla costa, ma anche i venti provenienti dagli altri quadranti sono stati in media un po' più decisi del solito e per la zona costiera è stato l'autunno più ventoso degli ultimi 30 anni. Ora l'anticiclone che ha portato stabilità atmosferica negli ultimi giorni si allontanerà verso sud, favorendo per oggi l'accumulo di umidità nei bassi strati, con foschie e nebbie e nel pomeriggio nubi basse su pianura e costa. Domani un debole fronte interesserà la regione, con cielo in prevalenza coperto e piogge sparse in genere deboli, qualche nevicata in montagna oltre 1200-1400 metri di quota circa, forse fino a fondovalle sul Tarvisiano. Nel pomeriggio di lunedì, l'approfondimento della depressione sul Mediterraneo occidentale favorirà di nuovo l'afflusso di bora, specie sulla costa, con raffiche sostenute forti in serata. Martedì è previsto un lieve miglioramento, ma il cielo continuerà a essere nuvoloso o variabile e sarà ancora ben presente la bora, specie al mattino e sulle zone orientali. Le temperature caleranno un po', assestandosi su pianura e costa sui 8-10 gradi per i valori minimi e attorno ai 12-14 gradi per i valori massimi. Lo zero termico scenderà fino a 1400 metri di quota circa. Mercoledì e giovedì è previsto un miglioramento, con bora da moderata a sostenuta, ma giovedì sera e venerdì l'approfondimento della depressione sul Mar Tirreno probabilmente porterà cielo coperto con piogge, forse anche abbondanti, e nevicate in montagna oltre i 1000-1200 metri circa. L'evoluzione successiva, per la fine della settimana, sembra essere caratterizzata dall'arrivo di una nuova depressione atlantica, con ulteriori precipitazioni. Ma come sempre, è opportuno seguire quotidianamente gli aggiornamenti delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A San Clemente si finis di metti la siala e le forment, ovvero per San Clemente il 23 novembre si termina di seminare segala e frumento. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.